già una ragazza. Per aiutare la famiglia andavo a fare i lavori nelle case della Marina, dai signori. Ai, ai. Don Antonino era l'unico che mi trattava come una di famiglia, va? Come si devono trattare, va? Le persone. Invece gli altri mi facevano mangiare in cucina, sulla come un cane. Don Antonino no. Antonino era un signore vero. Fu lui che mi regalò il mio primo paio di scarpe. Chi ce l'aveva mai avuto un paio di scarpe? Quando andavo a spiegare nei campi, mi facevo i piedi con due tavolette di legno oppure andavo scalza. Le scarpe erano roba da ricchi. Quando mi arrivarono le prime scarpe. Erano tutte mie. E avevo 15 anni. Che bello! Le mie prime scarpe! E cantavo, cantavo sempre, cantavo dappertutto. E quando all'Icata veniva qualcuno, che c'era qualche matrimonio, qualche battesimo, venivano da mia madre e ci dicevano: donna Vicenzì, ce la possiamo portare in rosa per un'oretta? E mia madre aspettava che mio padre si fosse curcato. E poi ero libera, libera e felice. Diceva che era lagnoso, che non aveva mestiere, tempo dei tappiti. Oh, ma dai, dai, e ci fidanzammo. Angelino veniva una sera sì e una sera no, e ci mettevamo uno da una parte e uno dall'altra del tavolo. E mio padre in tumenza guardia. A me Angelino piaceva assai. Desiderio di toccarli quei ricci meravigliosi.

Lusitana. Il corredo a 24. 24 mutande, 24 lenzuola, 24 camise. Ma chi ce l'aveva 24 camise? Chi non fa la pena via chi da che via il collo? E poi voleva pure la casa. Ma la casa, ma come si faceva con la casa? Che ci abitavamo tutti quanti, padri, madri, soro, frati, pure il porco e quel puzzo che si moriva. No, no, no, un amore che non scorderò mai. Finito il matrimonio con Angelino, mi dovevo sposare a forza. E ormai ero, come si dice, compromessa, va? E allora mi chiedono a uno di 35 anni e passa. Un vecchio! Ma che certo un vecchio, mi chiede, ma la pena ne aveva 17. Ma poi quella. Ma com'era su Gioacchino Torre Grossa? Ah, com'era? Con la conoscia! Comunque, guero, con non era, ci dovremmo sposare. Questo io conosco, basta. Ma per fortuna facciamo matrimonio a banca. Cioè, quello che si fa solo in municipio, almeno ci davano un sussidio. E durante il fascismo, non è che era passato assai tempo. Guarda, era una moda. E siccome era matrimonio a banca, ognuno se ne stava alla sua casa. Ah. Un giorno però, Iachino mi prese un gianello. Mi manda a chiamare e dice che si sente male, vieni, vieni, corri, corri, corri, corri, vieni, vieni. Allora io piglio e vado a casa sua. Non appena entro me lo trovo freddo, zitto, un palato in pastanza. Allora capii l'inganno, cercai di scappare, ma vinto piglio, mi butta a terra e mi possedette. Quando tornai a casa, non ci dissi nulla a mia madre che mi vergognavo. Però col passare del tempo il pancione mi cresceva. E allora ci dovremmo sposare in chiesa. Andiamo a vivere insieme. Iachino era lagnoso, non aveva mestiere. Sì, vabbè, faceva qualche lavoretto, piscava sarde e rubacchiava. E poi ci piaceva vivere più care. Era lagnoso, briaculi e laci. Una sera se ne torna a casa che dice che ha perso 1000 lire. La mia che me le dà 1000 lire. Chiedici la tua pace, ma chi ce le dà a mio pace? Chiedici la tua pace, ma chi ce le dà a mio pace? Chiedici la tua pace! Poi picchia, mi spaganta sul letto e comincia a dare pugni e pedate, faremo ancora un cornuto, poi a un certo punto mi fai ora brutta bagascia, fa chi da cavare più chiave! Mi faceva schifo! Cercai di colarmi, ma sentivo un sangue! Allora, il bambino era morto. Dopo questo fatto, non ne volevo sapere più niente di Iachino. Iachino! Insieme. se non era più mia, la fame potevamo fare. Per fortuna che nelle case dove andavo a servizio mi davano sempre qualche cosa a mangiare, chissà, una bicchia di pane, di pasta, di olio. Donna Giovannina, quando mi nacque la piccerita, mi fece un corredino. Non mia che me lo doveva fare il corredino, eh? Una santa, era una santa, vero? E domani la carne. Ma non si va a giocare con un picco. Una sera arriva e picchia tutte cose, lenzuolini, vestitini, braccialetti, orecchini, picchia e se lo va a giocare a carte. Allora io aspetto tutta la sera, aspetto tutta la sera, poi non appena arriva e ci faccio un ne. Un ne, un corredino da vicinita, diecelo subito, se no viene tu. E dico per tutta risposta picchia, mi spagato la presenza in testa, allora io non ci vedo. Sporco di sangue. Ma l'erba tinta non muore mai. Ma niente ci avevo fatto, che ci avevo fatto? Una ticchia di sangue, che scenografia. A mia però mi processarono e mi diedero 6 mesi. A Iddo ci tolsero la pace potestà, a mia. Mi misero in carcere, in carcere! E giurai che per mia Iachinazzo era veramente morto. Carceri casi fatto cruci cruci, mari ditto d'infami cati. Uscivano dalle loro mani, brocche, bottiglie, bicchieri, ma parevano gioielli. Un giorno uno dei capi mi manda a chiamare, e dice che mi deve parlare, chissà. Io mi racconta di certe occhiate che guidavo, ma mai potevo immaginare quello che andava facendo. Non appena entro nell'ufficio, poi picchia e mi chiude la porta alle spalle. Poi, senza dire neanche va, mi sbatte contro un muro, una mano sulla bocca e una mica alle ruotelle, e comincia a fare come un cane, tutto tranquillo. Finito che ebbe di sfogarsi,

scena uno spettacolo colossale sulla vita dell'uomo. C'erano tutte le regioni d'Italia e ci mancava giusto giusto la Sicilia. Questo spettacolo si intitolava Ci ragiono e canto. Allora io senza neanche ragionare picchio vado al teatro della Pergola dove facevano i provini. Non appena salgo sul palco mi metto a cantare. Palco, a 39 anni suonato, quella sera, col mio nome scritto nero su bianco su quel cartellone, quella sera che non sono stata più semplicemente Rosa, Rosa Delicata, ma sono diventata Rosa Balistreri. Allora, prima di salire sul palco, mi sono detta, però, pensa al porcile di Dio Martinez. Però, pensa al tuo staso di Giatinazzo, alla violenza della meceria, do porco do signorino, il prete malandrino di Palermo. Canta, però, ma canta pittia come ti disse Buttitta. Canta, però, canta la torraggia, canta Rò, canta lo duri, canta Rò, canta la raggia, l'uduluri e l'amore. Stasera vai e curru curu vento, aggravi ricordi della storia. Stasera voglio dare un momento la vita al passato e la memoria. Stasera con la vampa di amori scavo una fossa a luduri. C'è più dolore, c'è più tormento per gioia e amore qui l'umanità. Non ero pianto che cancia lo destino, non ero scanto che ferma lo cammino, grato di pugna, punto di vita, resto cusugno sulla vita. Manco la mano unica un parrino e fai ancora nuovo al vento cercare pace solo un momento. Voglio spaccare, spaccare il cielo il pari di oro pioviri amori. C'è cuto in canna, c'è cuco manna e con silenzio cuto si ne sta dentro cutiri che han forza di potenti e lo silenzio ammazza gli innocenti, grapoli pugna, conto le ieta, resto sogno, scorro la vita e canto e punto, punto e canto, pinno.

quindi io sono molto felice di avere dei partner così, così validi in scena, ecco. E ora invece parliamo di un tour per uno spettacolo all'interno della seconda edizione Libere di Essere, cioè Figlie di Scheherazade, che sarà a partire dallo scorso 19 novembre a Roma fino al 4 dicembre, passando per Riesi, Palermo, Catania, Genova. Giusto, Chiara? Giusto, è così. È un tour che appunto è partito dal teatro Off-Off con un tutto esaurito, quindi già questa è una bella partenza, direi. E adesso si va verso la Sicilia, Riesi, Palermo e Catania, dove a Catania tra l'altro siamo in uno spazio molto interessante perché è lo Zoo Centro Culture Contemporanee e saremo in scena il 24, che è sabato, sabato sera, quindi insomma chi fosse verso la Sicilia, che sta andando in Sicilia, venisse a trovarci, ma la data più importante è proprio quella di chiusura, che è il Teatro Nazionale di Genova, dove siamo nella Sala Modena, che è un gioiellino di teatro, un piccolo teatro argentina, perché c'ha i palchetti, insomma un teatro da 500 posti, e anche lì stiamo lavorando alacremente alla promozione, abbiamo già mezza platea piena. Questo fa piacere perché insomma vuol dire che c'è attenzione per uno spettacolo che noi portiamo in scena ormai da 13 anni. E abbiamo anche aspirato al radioteatro. Sì, è vero. E dicevo che appunto uno spettacolo portiamo in scena da 13 anni e malgrado noi stesse, nel senso chiaramente come teatranti ci fa piacere perché è bello vedere che un tuo progetto continua ad interessare e a creare emozione, riflessione e quindi ad essere richiesto, però diciamo che il motivo per il quale l'abbiamo scritto, che è appunto quello di contrastare la violenza sulle donne, ci provoca una grande ferita perché è un argomento purtroppo sempre attuale, anzi addirittura sembrerebbe che negli ultimi anni ci sia proprio un aumento di violenze contro insomma sulle donne, quindi della violenza di genere. Però ne parlavo giusto sabato sera scorso, il 17 novembre, abbiamo fatto un'anteprima, quindi prima di partire per il tour abbiamo fatto un'anteprima a Formello, dove c'è sempre un pubblico piuttosto attento, e tra il pubblico c'era la metà di una squadra di calcio femminile, quindi delle ragazze, che erano molto, sono rimaste molto colpite e mi dicevano, certo, però è sempre peggio, no? Negli ultimi anni il dato è preoccupante, insomma erano molto scosse, molto preoccupate, e io invece facevo questa riflessione, dicevo, probabilmente è sempre stato così. Adesso negli ultimi 10 anni è un dato che si registra di più, nel senso le donne stanno cominciando a denunciare maggiormente le violenze, quindi quello che una volta era un dato numericamente inferiore di donne che denunciavano la violenza non era la corrispondente nella realtà. Adesso le donne cominciano a parlare di e appunto a denunciare di più, e quindi il dato sembra essere esponenzialmente cresciuto. Tanto per dire un dato, io mi ricordo quando nel 2005 abbiamo scritto lo spettacolo, una delle ultime battute del mio personaggio Aisha, che è una donna turca che vive in Germania, quindi che una giovane donna che vive in Germania e quindi che si sente tedesca, ma chiaramente la sua famiglia invece continua a mantenere la cultura d'origine, quindi pretenderebbe che lei seguisse certi dettami, e quindi lei è costretta a scappare, a un certo punto approda ad un centro d'accoglienza per donne maltrattate e dice una frase del genere: ho cominciato a raccontare la mia storia, voglio parlare per tutte quelle donne che sono nella mia stessa situazione, perché è grazie al racconto, alla narrazione che appunto le donne possono riconquistare una libertà, una dignità e uscire da questo stato di violenza. E il dato che davo era mi ricordo una cosa intorno a, solo in Europa siamo più di 6.000 o qualcosa del genere. Adesso io quando recito la stessa battuta dico solo in Europa siamo quasi 100 milioni. A me mi viene da vomitare quasi quando do questo dato. È chiaro che noi ogni anno cerchiamo di aggiornarlo, no? E poi probabilmente nelle statistiche ci rientrano, appunto, noi andiamo a vedere tutte le donne che hanno subito violenza nella loro vita e chiaramente ci saranno dalle molestie alle violenze quelle più efferate, e quindi per carità è ovvio che i dati statistici vanno sempre presi un po' con le molle, però veramente a me mi si gela il sangue. Una delle nostre socie lavora in un centro antiviolenza, quindi si occupa attivamente di violenza di genere, e quindi è lì che sta sempre sul pezzo, quindi i dati aggiornati. E io dico: Laura, ma sei sicura? Cioè, ma noi una volta davamo dei dati che erano decisamente inferiori. Dice: sì, d'accordo, però ecco, è evidente che le donne stanno cominciando ad uscire da questo stato di soggezione, di paura, anche semplicemente nel parlare di violenza di genere. E quindi è chiaro che il dato cresce. Sì, quindi sì. Che dire, noi siamo contenti di portare in giro questo spettacolo da una parte, e dall'altra assolutamente no. Ecco, questo è quello che mi viene da dire. Sì. Diciamo anche che si inserisce questo tour in una settimana che arriverà a domenica 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Esatto, esatto. Tra l'altro un'altra cosa che mi preme dire, questo progetto Libere di Essere, che appunto, come hai detto bene all'inizio, è alla seconda edizione, viene realizzato grazie a un piccolo contributo della Chiesa Valdese, piccolo ma fondamentale, perché senza di questo contributo sarebbe stato difficile andare in giro per l'Italia, quindi noi siamo molto grati alla Chiesa Valdese che decide di occupare questi fondi dell'8 per mille non per i propri stipendi, bensì per progetti socioculturali, quindi questo veramente è un dato per me molto, molto interessante e che veramente va tenuto in considerazione. E la seconda cosa che mi preme aggiungere è che oltre alla Chiesa Valdese, i nostri partner sono alcuni dei centri antiviolenza della rete Dire. Quindi in ogni città noi abbiniamo lo spettacolo ad un centro antiviolenza, perché l'idea di Libere di Essere è quella proprio di portare un segno concreto, che non è semplicemente lo spettacolo e quindi uno spunto di riflessione su queste tematiche, ma è anche proprio un contributo. Quindi in ogni piazza noi in qualche modo andiamo a devolvere parte dell'incasso, cioè tolte delle spese vive, proprio tipo la SIAE o certi oneri previdenziali, ecco, queste spese vive del progetto, l'incasso viene devoluto ai centri antiviolenza. A Roma abbiamo abbinato lo spettacolo al centro antiviolenza Differenza Donna, a Riesi siamo all'Istituto Cristiano Valdese che in quel luogo si occupa di queste cose, poi a Palermo invece abbiamo il centro antiviolenza Le Onde, a Catania il centro antiviolenza Tamaia e a Genova il centro antiviolenza Mascherona. Quindi ecco, diciamo che le persone che poi vengono a vedere lo spettacolo e a seconda delle città o pagano il biglietto o danno una sottoscrizione libera, sanno che questi soldi poi andranno a dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che negli ultimi anni sono veramente tartassati e cominciano ad avere sempre meno fondi, soprattutto dal pubblico, e questo è gravissimo, perché il contrasto della violenza di genere deve essere fatto dalle donne e deve essere fatto dalle donne che ci lavorano ormai veramente da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni, donne che hanno una grande esperienza, perché è un argomento veramente molto delicato, quindi non va bene dire ah, ma noi finanziamo, non so, i consultori dove magari ci sono degli psicologi maschi, ma quale donna può rivolgersi a un uomo dopo che ha subito una violenza da un uomo? Cioè è duro come, come argomento da affrontare, e non è questione di voler escludere la metà l'altra metà del cielo, in questo caso, a questo punto diciamo i maschi, ma è chiaro che per uscire dalla violenza è necessario e fondamentale l'apporto maschile. Tra l'altro, nelle storie che noi raccontiamo, per esempio nella storia di Zoya, che racconta Tiziana Scrocca, che è la mia partner di scena, nonché di compagnia ormai da 20 anni, quindi insomma siamo un tutt'uno teatrale. Beh, la storia di Zoya è la storia di una ragazza afghana che è costretta a scappare dall'Afghanistan dei fondamentalisti, che le hanno ucciso entrambi i genitori che lottavano contro il fondamentalismo, padre e madre. Quindi non stiamo parlando solo di, appunto, gli uomini cattivi, no, assolutamente, ci sono degli uomini che sono nella lotta al contrasto della violenza di genere e magari ci lasciano la pelle tanto quanto, soprattutto poi, ecco, magari non in Italia ma magari altrove. Però ecco, senza l'apporto maschile non si va da nessuna parte, questo per noi è molto chiaro. E questo prescinde dal fatto di dire che i centri antiviolenza debbano essere invece gestiti dalle donne, ecco, questo ci tengo a precisarlo. Chiara, in chiusura ci lasci i riferimenti web per seguirvi? Assolutamente, andate sul nostro sito che è www.ilnaufragarmedolce.it, senza apostrofo, senza accento, tutto attaccato chiaramente, e sul sito troverete appunto tutti i nostri progetti, vi potete iscrivere alla mailing list per ricevere gli aggiornamenti, ma soprattutto potete vedere in quali piazze ci troviamo e qual è l'indirizzo preciso. Basta appunto andare sulle news e lo trovate. Scusate, sì. Siamo su Facebook, Instagram, Twitter, io non mi ricordo mai di dire queste cose, poi mi bacchettano, invece è così. Ricordiamo allora le prossime tappe del tour della seconda edizione di Libere di Essere, con lo spettacolo Figlie di Sherazad, dal 22 novembre al 4 dicembre, Riesi, Palermo, Catania, Genova. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico. Un abbraccio, a risentirci presto. Grazie e a presto. Ciao. Ciao. Eccoci, è arrivato il momento dell'agenda della settimana teatrale, soprattutto romana, con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, che è il bentrovato. Ciao, bentrovati tutti voi. Cosa ci dici? Allora, dunque, ti porto un po' in giro per teatri. Intanto ricomincio dall'Eliseo, dove rimangono, diciamo, gli spettacoli della settimana precedente, e quindi il lavoro di Silvio Peroni sulla drammaturgia inglese, Il giorno del mio compleanno, di Luke Norris, fino al 2 dicembre sale in scena, così come per questa ultima settimana resta Il tirano del Bergerac di Rostand, con cioè, la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, ma più che altro quella dentro Luca Barberetti. Ma resta anche il lavoro che non avevo segnalato in me di Paola Ponti per l'Eliseo Off, nel foyer seconda balconata, la regia di Danilo Nigrelli, Paola Ponti, Cose così. Fino al 28 novembre sarà in scena il racconto di una giornata di tre coppie, tre storie di uomini e donne comuni, di vite dolorosamente normali. Questo per quanto riguarda il teatro Eliseo. Dunque, allora Federico, qui facendo un po' una panoramica. Sì. Per quanto riguarda il Vascello, stasera è ancora l'opportunità di vedere Le furberie di Scapin di Molière, un spettacolo in francese con i sovrattitoli in italiano, con la messa in scena di Guy Simon, quindi uno spettacolo francese proprio in tutto e per tutto, non solo per il testo ma anche proprio per la messa in scena, per questa volontà di trovare con questo personaggio per Rosy Scopin Scapen, l'energia che appunto poi si esplicita attraverso gli attori, gli acrobati che si incrociano sul palco. Sempre sul vascello, allora ti segnalo per il 21 novembre, nell'ambito del calendario civile del Circolo Gianni Bosio, lo spettacolo Una mattina mi sono svegliata ed ero stanca di morir. Questo il 21 novembre al Teatro Vascello. Bene, allora, poi ti continuo qui con il Teatro Studio 1, dove c'è un po' un esperimento particolare, perché così fanno tutte, da Mozart da Ponte ai Tre Barba, e in realtà la regia appunto dei Tre Barba sono deliberato Esposito Garufo, e portano questo lavoro ispirato alla lirica, quindi a Mozart e a da Ponte, per questo progetto un po' particolare da portare nel piccolo Teatro Studio 1, insomma l'opera raramente passa per questi piccoli teatri, però ecco, le celebri opere eseguiti a cappella, in coro, senza strumenti musicali, dai tre appunto barbari, fanno poi verso i tre tenori, se non vado errato. E così fanno tutti appunto nella Napoli del 1700 fino al Teatro Studio 1, 22-25 novembre, Teatro Vittor Pignattara Studio 1. Ti segnalo al Centro Culturale Artemia, nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'autrice attrice Donatella May, che presenta il suo spettacolo Si chiamava Donatella come me, che abbiamo in archivio nel radioteatro. Sarà il 24 e 25 novembre. L'intervista la si trova sia sul mio blog Tutta Scena 1 che sul sito internet della radio alla voce Tutta Scena Teatro, che sulla pagina Facebook sempre del Tutta Scena Teatro. Bene, io ti dico che questa settimana, nell'ambito di Come Europa Festival, c'è una roba un po' particolare. Lucia Ronchetti con i solisti dell'ensemble Intercontemporain, scusami, non riuscivo a leggere, la prima esecuzione assoluta italiana, prima nazionale per questo lavoro, Le avventure di Pinocchio, 22-25 novembre, sarà alle Terme di Diocleziano. E un lavoro un po' particolare, di teatro musicale da camera per grandi e bambini, vedo delle foto insomma con questo piccolo manichino di Pinocchio che viene portato dalle mani dell'attrice, e però appunto una pièce che ha molto a che vedere con la musica, ci sarà poi insomma l'offerta dell'ensemble orchestrale, quindi con i musicisti in scena, con il set percussivo. Quindi alla Terme di Diocleziano, 22-25 novembre, per Le avventure di Pinocchio. Al Teatro Tordinona, dal 22 al 25 novembre, 8:60 e famiglia della compagnia Enter, l'intervista al regista attore Luca Milesi, anche questa si trova sia sul blog Tutta Scena 1 che sulla pagina Facebook del Tutta Scena Teatro, che sulla pagina del Tutta Scena Teatro sul sito di Onda Rossa. Benissimo, io ti dico che invece torna dopo varie repliche quest'anno, in realtà in vari teatri, ancora torna a Reparto Amleto il lavoro di Lorenzo Collalti, che ha avuto un certo successo a Roma, perlomeno senza dubbio, e sarà al Teatro Torlonia, di Torlonia appunto, dal 20 al 25 di novembre. E l'intervista al regista in questo caso è sempre sul blog e sul sito del e sulla pagina Facebook del Tutta Scena Teatro. Oh, benissimo, benissimo. E poi ancora, sì, Teatro Vittoria addirittura, ci andiamo mai, ma questa settimana debutta e sarà in scena, quindi dal 20 novembre fino al 2 di dicembre, Dio Pluto di Aristofane, tratto dal Pluto di Aristofane, con la regia di Yuri Ferrin. Yuri Ferrin è un attore che abbiamo imparato ad apprezzare varie volte, che insomma si diventa talvolta con la regia in questi ultimi anni sicuramente molto, una riscrittura di questa celebre commedia di Aristofane, che prende il nome da questo dio greco della ricchezza, e appunto dopo 2400 anni però è diventato un po' insomma il nome per eccellenza, il denaro, l'avere, la ricchezza dell'uomo contemporaneo. Quindi 20 novembre, 2 dicembre, Teatro Vittoria, Dio Pluto. Oh, il buon Gioan Bartolo Botta mi segnala lo spettacolo Otello non si sa che fa al Club 55 Pigneto il 21 novembre. per la scrittura di Gioan Bartolo Botta che è in scena insieme a Claudia Salvatore. Ecco qua, Teatro di Roma, al Teatro Argentina, dal 20 novembre il debutto di Luca Zingaretti, dirige Luisa Ranieri, che se non sbaglio credo sia la compagna, adesso non vado a fare gossip, che è meglio perché non ne so niente. Quest'opera dell'inglese Terence Rattigan si chiama The Deep Blue Sea, un'opera fuori dal tempo che ha di malinconia e passione sullo sfondo di quella che è l'Inghilterra del dopoguerra. È costruito il testo attorno a un personaggio femminile che è vittima delle sue scelte, una moderna eroina che è pronta a mettere in discussione il matrimonio per una passione irrefrenabile, insomma, una novella Madame Bovary. 20 novembre, 2 dicembre per The Deep Blue Sea al Teatro Argentina. Una parentesi fuori dalla capitale, il Festival Teatro di Nascosto, 20 anni di teatro reportage a Volterra dal 23 al 25 novembre. L'intervista alla direttrice Anne Tenemann, anche questa è sul blog Tutta Scena 1 e sulla pagina Facebook del Tutta Scena Teatro. Allora invece io ti torno al Roma Europa Festival che va poi verso la sua conclusione e questa settimana presenta ancora lavori soprattutto legati a Rap Kids, che è la piccola rassegna, piccola, la grande rassegna per una discreta, un discreto programma di teatro per le giovani generazioni. E ci ho detto, però, non è solo questo, non c'è solo questo, perché abbiamo anche François Chouinard e Cecilia Bengolea con DFS 23 e 24 novembre, quindi siamo con la danza al Teatro Vascello, è un lavoro, è una compagnia che avevamo già visto di recente allo Short Theatre. Si tratta di coreografi che cercano un po' di proseguire la ricerca di Pina Bausch del Tanz Theater di Wuppertal, capace di unire tecniche tradizionali alle pratiche contemporanee della danza. Sono cinque ballerine artistiche del sul giamaicana che si incontrano in scena per confrontarci con il canto e svariate tecniche di danza. Ora, tutto questo andremo a vedere il 23 e 24 novembre al Teatro Vascello. Cos'altro dirti di Romero Festival, sì, probabilmente questo lavoro qui, 20-21 novembre al teatro, nella sala teatrale, nella sala Petrassi, dell'Auditorium Parco della Musica, per Terge, che è un lavoro firmato da più voci, la collaborazione tra il Stolist Ensemble Kaleidoscope e la compagnia Fanny Alexander con l'attore Marco Cavalco, un'opera ispirata alla vita di Sergei Diaghilev, il cosmopolita visionario impresario russo che ha rivoluzionato il mondo della danza internazionale e ha fondato appunto i balletti russi, sarebbe Felice Battiato, ovviamente di vedere questo lavoro. 20-21 novembre, appunto, Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica. Ultima cosa che ti segnalo, Federico, Sì, è il Teatro Biblioteca Quattriciolo, certo. che è questa la settimana, una settimana in realtà mista, perché abbiamo, e se lo ritrovo è meglio, ecco, è una settimana intera che è dedicata alla violenza, che è contro la violenza sulle donne, e ci saranno un po' di appuntamenti. Il 20 novembre la rassegna è aperta con la conferenza spettacolo di Michela Murgia, Donne e Periferie, poi appunto arriverà il nostro amato Saverio La Ruina che porta l'intera trilogia che rappresenta la sua idea di teatro, ma passando alla sua drammaturgia, la sua interpretazione in scena, presenterà tre lavori, 22, 23 e 24 novembre. Nell'ordine, tre lavori che io reputo meravigliosi, soprattutto i primi due, il primo in assoluto tra i miei spettacoli preferiti, E li abbiamo anche in archivio. Dissonorata, un delitto d'onore in Calabria, è qualcosa di straordinario. Alle ore 21 al Teatro Biblioteca Quatticciolo, segue 23 novembre L'aborto, altro lavoro straordinario, lo spettacolo del premio UBU nel 2010 con il miglior testo italiano a Saverio La Ruina, e poi il 7 sempre premiatissimo, il 24 novembre, un lavoro più recente che si chiama Polvere, dialogo tra uomo e donna, che appunto il monologo lo trasporta su un piano dialogico e appunto si trova in scena la ruina con una donna, la propria donna, una donna che vivrà insomma in maniera violenta il rapporto di coppia. E il 25 novembre la rassegna si chiude in maniera cinematografica, diciamo, con un incontro tra Isabella Ferrari, l'attrice Isabella Ferrari, e Antonio Celestini, e poi la proiezione di Un giorno perfetto di Bertano Ospetek. Tornando a Saverio, l'intervista a lui è sia sul mio blog che il link c'è anche sul sito della radio e sulla pagina Facebook del Tutta Scena Teatro. Un abbraccio Simone, ciao, alla settimana prossima. Ciao, ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.